in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, anche se come nelle mattine scorse apro una finestra sull'estero, cominciando da Financial Times. La fotonotizia è, come accade anche per altri giornali italiani e per molti giornali stranieri, una foto scattata ieri in Brasile del premier del presidente Jair Bolsonaro, che si è insediato ieri era il primo gennaio del 2019, quindi l'anno, benché le elezioni siano state nel 2018, l'insediamento ufficiale ieri. Qui una fotografia con accanto la moglie. Il titolo principale però dedicato, abbiamo sentito proprio da Sergio Nava, le incognite dell'Unione Europea, e il Financial Times ha sostanzialmente lo stesso tema: gli euroscettici avranno un forte successo nelle elezioni, scrive Financial Times, e che ha un'intervista al premier polacco Mateusz Morawiecki, che spiega in tutto sommato ve la prendete di più con i populisti di alcuni paesi, ma di fronte a manifestazioni che diventano anche violente come quelle dei gilet gialli, poi le reazioni sono più contenute. Un titolo anche dedicato a Netflix, il gigante delle trasmissioni via cavo, che fa concorrenza sia alla TV generalista che alle tradizionali TV a pagamento, come il network di Sky internazionale, perché Netflix aveva una serie TV dove si parla anche dedicata sostanzialmente alle tensioni internazionali, e l'episodio in cui si criticava l'Arabia Saudita, si parlava della guerra la cui regia è secondo tutti quella dell'Arabia Saudita, cioè la guerra in Yemen, e questo episodio è stato cancellato da Netflix per una cancellazione preventiva, visto la sensibilità, eufemismo del regime saudita alle critiche. Un approfondimento sul Brasile, non tanto alla cerimonia faraonica di insediamento che c'è stata ieri, ma ai piani economici. A pagina 7 del Financial Times, la big read di oggi, cioè l'articolo di approfondimento, quello più lungo, ed è dedicato alla cosiddetta Bolsonomics, così come abbiamo parlato in passato di Abenomics, l'economia secondo il premier giapponese Shinzo Abe. In questo caso, anche in questo caso, si crea questo neologismo perché i cambiamenti, le rotture col passato, il programma di riforme annunciato da Bolsonaro è in effetti, per ora è un programma, se poi venisse realizzato è sicuramente un nuovo modo di intendere, se non altro, la politica economica in Brasile. Il proclama più forte e anche più ascoltato e più sottolineato, e anche qui vedremo se poi ai proclami faranno seguito i fatti, è quello della lotta alla corruzione, che in Brasile è altissima. Un altro approfondimento interessante, vedremo che anche sul Sole si tocca questo argomento, è il futuro della Cina. Secondo Martin Wolf, che è uno dei commentatori di punta del Financial Times e anche economista, dice: non è poi così sicuro che la supremazia economica del futuro sia della Cina, perché il gigante silenzioso, l'eterna promessa dell'economia mondiale, l'India, si sta apparentemente finalmente avviando a quel ruolo protagonista che molti preannunciano e vaticinano da anni. Bene, passiamo al Sole 24 Ore, perché qui il titolo principale si focalizza su una questione, e anche qui è frutto del lavoro certosino dei colleghi di Roma, e che nessun altro giornale esamina, e che invece credo sia veramente importantissima, perché sono i fatti al di là dei numeri, sono i cosiddetti decreti attuativi. Senza decreti attuativi nessuna legge, nemmeno questa legge finanziaria, dal percorso e dalla gestazione così lunga e difficile, può diventare fatti senza questi decreti attuativi. Bene, ce ne vogliono 161, ne erano previsti 40, ora sono saliti a 161, sono necessari per attuarla, e in questo iter parlamentare appunto sono quadruplicate le norme attuative. Due altri articoli vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Uno è una lettera al Sole 24 Ore del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, terza carica dello Stato dopo il Presidente Mattarella e il Presidente del Senato. È una precisazione su tutti, su quello che è stato fatto alla Camera soprattutto, quindi la Camera è uno dei due rami del Parlamento, fino adesso, cioè dall'inizio di questa legislatura. Il titolo, il faro che indica la strada, è la centralità del Parlamento. In parte naturalmente è una risposta a uno dei passaggi del messaggio del presidente Sergio Mattarella di fine anno, dove appunto si è ha toccato anche il tema dell'iter parlamentare della legge finanziaria, che sappiamo è stato più insolito del solito, scusatemi il gioco di parole, perché comunque spesso provvedimenti così importanti arrivano blindati, nel senso che poi per l'approvazione viene messa la fiducia, come dire ai parlamentari, e sappiamo che questo governo ha una maggioranza ancora molto forte sia alla Camera che al Senato, è come dire votate questo provvedimento oppure in realtà bocciate il governo del quale siete espressione, quindi è un modo proprio appunto per blindare un provvedimento, per renderne sicura l'approvazione. Però è anche naturalmente un modo di agire che esclude di fatto il ruolo dei parlamentari di opposizione. Aggiungiamo a tutto questo che in generale le manovre, quando fanno i passaggi parlamentari, le manovre e le leggi arrivano con degli emendamenti discussi nelle commissioni, in questo caso era la commissione bilancio, non c'è stato il tempo, quindi la manovra è arrivata non solo blindata ma anche praticamente sconosciuta a chi la doveva votare, magari anche dando un voto contrario, però almeno un voto contrario informato, potremmo dire così. Molto interessante l'intervento dell'economista Marco Fortis, che è anche presidente della Fondazione Edison e che come sempre parte dai dati. Marco Fortis a parte la scrittura, che è sempre leggera, comprensibile, un grandissimo divulgatore di temi economici, ma parte sempre da dati e in questo caso sono i dati sul PIL delle diverse regioni e paesi che appartengono all'Unione Europea, e la conclusione da questi dati che trae Fortis è la lezione di Francia e Gran Bretagna: chi paga l'Europa diseguale. Vi leggo le prime righe, poi trovate tutto a pagina 17. Forse niente spiega meglio le difficoltà della Francia scossa nelle ultime settimane dalle proteste dei gilet gialli come un semplice dato di Eurostat. Nel 2016 i francesi che vivevano in regioni con un PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, il cosiddetto PPS, inferiore al valore medio dell'Unione Europea a 28, erano 48,1 milioni, cioè il 72% della popolazione complessiva transalpina. Quindi è lo stesso, più o meno lo stesso ragionamento, trovate, ripeto, tutto nell'articolo di pagina 17, vale per i cittadini del Regno Unito, che come sappiamo hanno, lo avete sentito anche nell'inserto l'anno che verrà di Sergio Nava, che come sapete poi hanno mostrato questo scontento anche votando per la Brexit. Corriere della Sera, i nuovi richiami di Mattarella, quindi ancora un approfondimento a quasi due giorni di distanza dal discorso del Presidente dello Stato di fine anno, foto notizia dedicata all'insediamento di Bolsonaro, in questo caso la foto, a differenza di quella scelta da Financial Times, mostra anche l'auto su cui sfilavano, che è una Rolls Royce. L'editoriale è del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che raramente appunto firma degli editoriali, in questo caso è dedicato proprio ai temi toccati dal Presidente della Repubblica e al discorso in sé, che come avete sentito ha avuto anche tantissima eco sui social network e anche tanti commenti, quindi un successo comunque per un presidente che sicuramente non è un nativo digitale, ma che ha probabilmente dato un messaggio talmente efficace che appunto ha avuto una grande eco anche sui social network e sui siti di informazione. Il titolo dell'editoriale di Luciano Fontana è Il tempo perduto delle illusioni. Con il Corriere della Sera, come ogni mercoledì, anche l'inserto Buone Notizie, che è dedicato in gran parte poi al terzo settore, però senza, naturalmente sappiamo che c'è la questione dell'IRES raddoppiata alle ONLUS, però E questa è una manovra che al momento è ancora contenuta nella finanziaria, però si è già promesso da parte del governo che questo provvedimento verrà corretto in uno dei famosi decreti attuativi o in un decreto ad hoc che dovrebbe arrivare a breve. Quindi buone notizie, più che occuparsi di questo, fa il bilancio 2018-2019, un anno a lieto fine. Poi ripercorre tutte quelle che sono oggettivamente buone notizie, anche internazionali, naturalmente, dell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Il Messaggero focalizza sul tema delle pensioni, degli esodi anticipati, che è anche legato a quota 100. Il titolo quindi: pensioni, maxi esodo degli statali. Tra chi ha i requisiti e poi chi li avrà con il nuovo provvedimento quota 100, in uscita 200.000 dipendenti. Il nodo ricambi per 40.000, il famoso appunto turnover. Reddito, ecco le misure antifurbetti, niente assegno a chi si licenzia e ai finti divorziati. Molto interessante l'intervista al ministro dell'istruzione Marco Bussetti, che al Messaggero dice: patto con le imprese per assumere chi esce dagli istituti tecnici. Sapete che questo è un grande tema, se ne sono occupati tantissimo i colleghi di Radio 24, ma anche al Sole 24 Ore, e perché anche molto spesso Maria Lattella nel scegliere argomenti su questo tema durante la sua rassegna stampa o la sua trasmissione Nessuna è perfetta, di cosa parlo? Appunto degli istituti tecnici, di questo tipo di formazione che in altri paesi è molto diffusa. Si cita sempre il caso della Germania con le famose Berufsschulen, cioè le scuole che Beruf vuol dire professione, anzi ha una bellissima etimologia, perché Beruf in realtà vuol dire chiamata, quindi anche questo è un modo di nobilitare le professioni che non richiedono una laurea, ma che non per questo, anzi a maggior ragione, richiedono un grande talento. Gli istituti tecnici purtroppo nel tempo in Italia hanno perso finanziamenti, hanno perso prestigio, hanno perso anche così fascino nei confronti delle nuove generazioni, e visto che ne abbiamo parlato anche ieri, il 7 di gennaio poi è la data per scegliere le scuole e anche per chi deve fare la scelta del liceo. Molto interessante appunto trovo questo annuncio del ministro Bussetti, che dice: basta pensare solo ai licei, i professionali danno lavoro, e promette: formeremo nuovi professori per aiutare i ragazzi a scegliere le scuole. Vi segnalo anche la Gazzetta dello Sport per una bella intervista a Jean Todt, che dice, intitolata Schumi amico mio, domani infatti Michael Schumacher, che è in coma dopo un incidente sugli sci, compie 50 anni. Il Jean Todt è ottimista, dice che insomma è come se dicesse: io sono sicuro che un giorno Michael si risveglierà, vedremo ancora tanti GP insieme. E poi un approfondimento su Cristiano Ronaldo, la cui avventura in Italia, lo sappiamo, nella Juventus sta avendo tutto il successo che i tifosi juventini speravano, e quindi un reportage da Dubai, dove Cristiano Ronaldo ha trascorso il Capodanno, sesta Champions e sesto pallone d'oro per diventare il re del millennio. Questo è un po' il 2019 di Ronaldo, ma niente ossessioni, il brindisi con Giorgina, la moglie e gli amici negli Emirati. La Repubblica: Mattarella sfida Movimento 5 Stelle e Lega, no all'odio, serve più dialogo. Questa è l'interpretazione che la Repubblica dà del discorso del presidente Mattarella, che in realtà non ha fatto alcun nome di politici o di forze politiche. Il commento è di Eugenio Scalfari, fondatore della Repubblica, quel paese che vorremmo e non esiste. E poi tanti altri, in realtà, come vi dicevo, uno dei commenti, perché c'è anche quello di Claudio Tito, cambio di stagione al Colle, e quello di Michele Serra, il coraggio di parlare di bontà. Fotonotizia anche in questo caso di Jair Bolsonaro con la moglie Michelle a bordo di questa Rolls Royce nel giorno del suo insediamento ufficiale. La Stampa: subito scontro fra Salvini e Di Battista. Sapete, i due leader nel Movimento 5 Stelle, uno in realtà naturalmente Luigi Di Maio è anche vice premier e ministro del lavoro, ma Di Battista, che non è In Parlamento, non è stato, non si è candidato alle elezioni, alle ultime elezioni politiche, però ha continuato nel suo periodo sabbatico fino a pochi giorni fa, era in Sud America, adesso è tornato in Italia per farsi questa sciata sulle Dolomiti insieme a Salvini, e da lì, da questo campo di sci, hanno fatto una piccola diretta Facebook e Di Maio ha promesso che il 2019 porterà questo grande regalo agli italiani, che è il taglio dello stipendio dei parlamentari. Dopodiché Salvini gli ha risposto, non direttamente ma con un altro messaggio, che in realtà per la Lega non è esattamente questa la priorità del 2019. Altre due segnalazioni prima di lasciarci un attimo per un aggiornamento sul meteo. Un'intervista ad Arrigo Cipriani, patron dell'Harris Bar, che ha 86 anni ma è ancora un protagonista dell'enogastronomia italiana e naturalmente veneziana, commenta l'introduzione del ticket giornaliero per entrare a Venezia e dice: temo che possa servire per pagare il Mose, sapete, quella opera gigantesca mai terminata che negli intenti doveva salvare Venezia dai pericoli dell'acqua alta. Ci lasciamo un attimo per il meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ben ritrovati alla rassegna stampa. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 di auguri ma anche di segnalazioni, in particolare Cristina da Cuneo, che ci racconta la sua storia. Si è diplomata nel 2001 in un istituto professionale tecnico, ha trovato lavoro, ma poi ci sono anche delle difficoltà, questo mi sono dimenticata di sottolinearlo, ma il tema è complesso e ampio, che poi in realtà è difficile le maturità, chiamiamole così, di un istituto tecnico non sono completamente comparate a quelle di altri licei, e quindi Cristina per esempio dice: ho queste difficoltà, adesso mi hanno spinto a prendere una maturità in ragioneria come privatista. Quindi, come dicevo, il tema è interessante, di grandissima attualità, visto che, come dice Cristina, in realtà dal punto di vista della possibilità di trovare un lavoro questi istituti aiutano molto, però ci sono altre fronti su cui lavorare e affinare il profilo anche giuridico dei titoli di studio che si conseguono negli istituti tecnici. Torniamo alle pagine dei quotidiani, le prime pagine. Il Fatto Quotidiano, anche il Fatto si concentra su questi nuovi scenari all'interno del Movimento 5 Stelle, con l'annunciato ritorno di Di Battista in Italia, anche se per ora solo per sciare. E invece il Fatto Quotidiano dice: Di Battista aiuterà il Movimento 5 Stelle alle europee e poi via in Congo. Suppongo che logica vorrebbe che si dovrebbe credere al Fatto Quotidiano, perché è sul Fatto Quotidiano che Di Battista finora ha pubblicato i suoi reportage dal Sud America. Quindi da giugno ci saranno i nuovi reportage, ma dall'Africa. Marco Travaglio fa addirittura una celebrazione di se stesso, perché ricorda quello che ha scritto esattamente un anno fa. Marco Travaglio, lo sapete, è direttore del Fatto Quotidiano, ogni giorno scrive un editoriale, questa volta appunto per ricordare e celebrare quello che aveva scritto un anno fa. Molto duro peraltro, molto duri altri due articoli del Fatto Quotidiano sul governo, sulle recenti vicende del governo giallo-verde, perché da una parte ecco i boiardi dei giallo-verdi, alcuni nuovi, molti riciclati, 7 mesi di nomine, con appunto una carrellata di tutti questi nominati dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, che nella maggior parte dei casi hanno poco dell'annunciato rinnovamento di questo governo, che si autodefinisce ancora adesso il governo del cambiamento. Un altro approfondimento sulle espulsioni: ripartono le espulsioni fuori De Falco e altri due dissenzienti rischiano, e come avete sentito anche nei GR, per quanto riguarda Gregorio De Falco in particolare è per il suo no al decreto sicurezza, che era un provvedimento fortemente voluto dalla Lega, e per gli altri ci sono anche, poi Gregorio De Falco tra l'altro si è astenuto sulla manovra finanziaria, e per gli altri ci sono sempre delle motivazioni legate al fatto di non aver votato secondo le direttive del movimento. Molto interessante anche l'approfondimento, che poi trovate molto ampio e documentato da pagina 15 a pagina 18 del Fatto di Oggi: Parmalat, Pirelli, Indesit e C, Made in Italy addio, ma non è un guaio. Il tema è quello delle aziende. Io che seguo per il Sole 24 Ore, in particolare il settore della moda, posso parlarvi di Valentino, di Gucci, che è italianissima, però di fatto appartiene a un gruppo francese che è Kering, oppure a Bottega Veneta, scusatemi, Bottega Veneta è sempre di Kering, o Loro Piana, Fendi e Bulgari, che invece appartengono a LVMH. Sono effettivamente, la proprietà cambia, però in questi casi e in tanti altri che non riguardano la moda, si parla della Ducati, delle gelaterie di Grom, la produzione, gli uffici stile o comunque di ricerca e sviluppo restano in Italia, e anzi con il passaggio, con l'acquisizione da parte di grandi gruppi stranieri, viene potenziata anche l'occupazione in Italia. Quindi per questo la conclusione di questo articolo: non è un guaio se sulla carta d'identità alcune aziende cambiano nazionalità. Poi un articolo sempre dal Fatto, che poi mi porta alla prima pagina del Foglio, è dedicata proprio al Foglio, o meglio all'editore del Foglio, che è Walter Mainetti. Fa parte questo articolo di una serie di articoli dedicati dal Fatto agli editori cosiddetti impuri. Intrecci di affari, contenziosi e inciampi giudiziari hanno spinto l'imprenditore romano ad appoggiare ora i gialloverdi. E sapete che c'è stato una, almeno così ne hanno parlato altri giornali, che questo editore avrebbe contrastato la linea del Foglio, che è invece antigovernativa. E allora, siccome qui appunto si dice editori impuri, sembrerebbe quasi che appunto l'editore appoggi Gialloverdi e quindi di conseguenza lo fa anche il giornale che possiede, vi leggo la prima pagina del Foglio di oggi. L'articolo principale del direttore Claudio Cerasa: ora tocca a noi, i millennial salveranno l'aria libera dell'Europa, il dovere di farsi sentire di una generazione di giovani cresciuti senza conoscere né muri né dazi e protetti dall'euro. E invece l'intervento del fondatore Giuliano Ferrara: paradossi virtuosi, la manovra fiduciata in modo furbesco è come la valigetta del cancelliere dello scacchiere, la responsabilità è loro. E un articolo di Merlo invece sulla questione del messaggio del presidente Mattarella di fine anno: le idee e lo stile di Mattarella contro il governo degli esagitati. Vi leggo alcune righe, è un articolo scritto benissimo, tra l'altro del Foglio, ovviamente si può apprezzare o non apprezzare la formula, è un giornale di opinione molto snello sempre, specie durante la settimana, e però anche, come credo chiunque sappia, chiunque lo legge o lo sfoglia, è curato nei minimi particolari, difficilissimo trovare un refuso sul Foglio. Quindi è sicuramente un esempio, se non altro, di bella scrittura, di buona scrittura. E comunque vi leggo questo articolo di Merlo. Circondato da un cosmo in cui politici afflitti dall'ansia dell'esistere si affacciano anche più volte al giorno dal virile balcone di Facebook per eruttare parole come comignoli, Sergio Mattarella ricorda invece il vecchio pudore, riporta alla luce il sorriso dolente della ragion di Stato, forse lo stile morbido e solenne della DC. Parla infatti per circa 14 minuti e nel discorso di fine anno il Presidente della Repubblica dice che la sicurezza non sono i manganelli, ma un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune. Parla quindi di competenze necessarie e di difficoltà che non vanno nascoste, di approfondimento e di impegno di fronte alle difficoltà dell'economia e del lavoro. Ricorda alle forze di governo la grande compressione dell'esame parlamentare nell'approvazione della legge di bilancio. Ribadisce la dimensione europea in cui l'Italia è chiamata a muoversi. Rammenta Matteo Salvini che le divise di polizia, carabinieri e vigili del fuoco non sono felpacce da campagna elettorale, ma il simbolo di istituzioni al servizio dei cittadini. E insomma, più il Presidente della Repubblica parla, più mette in dubbio che il modello vincente sul proscenio pubblico della politica debba essere per forza quello del piacione, del gradasso, del brancaleone, del truce e del castigamatti. Mattarella ama stare sotto vento, il suo è il ritmo dello studioso, ma pure coniuga l'equilibrio con la tenacia del non mollare, perché il suo discorso tutto politico è rivolto ai malumori e alle sgrammaticature del populismo. E forse il segreto che questo anziano presidente persegue è la semplicità, quell'armonia, quell'armonica semplicità che nel marasma sbracato della politica italiana sbalordisce in misura maggiore della più intricata magia. E tra l'altro il discorso in forma integrale con i commenti di Salvatore Merlo del Presidente lo trovate a pagina 3 del foglio di oggi. Il Giorno si concentra, anche qui naturalmente si comincia a poter leggere la manovra nei suoi dettagli, e quindi tariffe e multe già stangata. Un conto da 914 euro a famiglia, l'auto nel mirino, e da ieri, tra l'altro ricordo anche il Giorno, è in vigore la fatturazione elettronica. Tra l'altro naturalmente trovate, poi lo vedremo, anche un approfondimento di una pagina sul Sole 24 Ore. Il Giornale, privilegiati a 5 stelle. Di Maio e Di Battisti, e Di Battista da 7 mesi in ferie, poi vabbè, questa è un po' una, diciamo, una cattiveria, nel senso che Di Battista non è tecnicamente in ferie, perché in questo momento non ha un'occupazione, quindi non è, come abbiamo detto, non si è candidato e non è un parlamentare. Ha scelto di prendersi questo periodo, possiamo dire, sabbatico. È appena rientrato dal Sud America, dove peraltro ha anche lavorato, quindi non si è trattato proprio solo di ferie, ha mandato questi reportage pubblicati dal Fatto Quotidiano. Sulla questione del reddito di cittadinanza, un'analisi del Giornale: reddito a 200.000 famiglie straniere, il sussidio grillino non sarà riservato solo agli italiani. Questo è secondo il Giornale. Libero: svilite le promesse del governo, più che una manovra è una marcia indietro. La fotonotizia è quella sfocata, perché come sappiamo appunto è stata una diretta Facebook. In realtà cancellano la norma che vieta la terza elezione, i grillini si inchiodano alla poltrona. La questione è quella della possibile, perché in realtà Di Maio ha smentito, ma secondo la stampa di 2 giorni fa in realtà è proprio così, che il divieto che i grillini il Movimento 5 Stelle si era dato per statuto di non andare oltre ai 2 mandati per ogni persona, 2 mandati in Parlamento. Ora questa regola potrebbe saltare, ma appunto Libero lo dà per certo, la stampa anche, Di Maio ha formalmente smentito, vedremo. Molto interessante il reportage di Azzurra Noemi Barbuto, che ha passato la notte di Capodanno al pronto soccorso, un pronto soccorso di Milano. La solitudine dei numeri zero, la mia notte di Capodanno al pronto soccorso dei disperati. La Verità torna a concentrarsi sulla questione della pedofilia all'interno della Chiesa e secondo quanto riportava il famoso rapporto di Viganò, che era stato direttore della sala stampa vaticana e poi era stato nunzio negli Stati Uniti e aveva appunto pubblicato, e La Verità ne aveva dato notizia per prima, questo rapporto che sarebbe stato così sottovalutato, se non altro, da Papa Francesco. La Verità torna su questo e dice: al mago del Papa non riesce il primo trucco, e il riferimento anche al fatto che ci sono state le dimissioni del direttore della sala stampa vaticana attuale, che era un americano, Burr, e della sua vice, che anche ha lasciato a sua volta l'incarico. Quindi comunque anche un po' di così, probabilmente la conseguenza anche degli scandali sulla pedofilia, che sono, tra l'altro, se ne scoprono continuamente nuovi aspetti, soprattutto negli Stati Uniti e in Sud America, appunto ha anche delle ripercussioni sull'apparato di comunicazione del Vaticano. Prime pagine, prima di lasciarci per una breve pausa sul traffico, il Manifesto: gli ultimi dell'anno. Il riferimento è alla nave che è ancora in mare dopo 11 giorni nel Mediterraneo. Immaginate cosa può essere stare in mezzo al Mediterraneo in inverno, in un inverno che tra l'altro sta diventando sempre più rigido. Clima avverso e a rischio malattie, denunciano i medici. 49 naufraghi salvati dalle 2 ONG tedesche continuano a non trovare un porto per accoglierli. L'onda a Parigi: blindano la Manica contro l'aumento degli sbarchi. quindi sembra proprio non esserci una soluzione all'orizzonte. Avvenire, l'impegno di tutti per fare comunità, ed è il riferimento al messaggio di fine anno del Papa, che secondo Avvenire è consonante con quello dei Vescovi e del Presidente Mattarella. Ci lasciamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Certo, devo all'ascoltatore che precisa, attenzione, Viganò non era mai stato direttore della sala stampa vaticana. Vero, il direttore del capo della sala stampa vaticana dimissionario è Burke, e invece Viganò era stato appunto ambasciatore del Vaticano, per così dire. Spero che l'ascoltatore mi passi almeno questa semplificazione, negli Stati Uniti. Comunque grazie a tutti gli ascoltatori ancora una volta che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. Torniamo al Sole 24 Ore. Vi dicevo, una pagina intera sulla fattura elettronica, con anche un glossario con i temi principali, da esoneri a il cosiddetto sistema di interscambio. E il titolo di questa pagina è 4 miliardi da recuperare con scontrini e fatture online. Infatti con queste due misure, quando andranno a regime, l'erario conta entro il 2021 di raddoppiare i 2,3 miliardi di maggiori entrate già attese per quest'anno, quindi oltre i 4. Tra l'altro è interessante la prova che ha fatto un commercialista che collabora sempre con il Sole 24 Ore, sono i due commercialisti Salvina Morina e Tonino Morina. Hanno fatto una prova ieri, appunto, hanno inviato una prima fattura elettronica, la trasmissione al sistema di interscambio, risposta sull'esito entro 5 giorni, primo invio senza intoppi, atteso appunto entro 5 giorni l'ok finale. Molto interessante, richiamato anche in prima pagina, l'approfondimento di Gaia Giorgio Fedi e Lucilla Incorvati, che trovate a pagina 6 del Sole 24 Ore, sui fondi azionari. Resa dei conti sulle commissioni, l'indice ha fatto meglio. Qual è il tema? È che i fondi azionari, come peraltro molte altre categorie di investimenti nel 2018, sono andati male, i fondi azionari, perché hanno alla loro base appunto le azioni, e come sappiamo, come abbiamo detto ieri, le borse in primis quella italiana, ma anche le borse europee e in dicembre persino quella americana, hanno archiviato un anno molto negativo, quindi i fondi hanno seguito questo con perdite spesso a due cifre, che arrivano addirittura almeno 27% per alcuni fondi, di cui trovate l'elenco completo sulla pagina 6. A fronte di questo, però, le commissioni invece che chiedono i gestori non sono assolutamente diminuite. Però la novità è che adesso queste commissioni devono essere comunicate con la massima trasparenza, e da qui per la direttiva, la cosiddetta MiFID 2, e quindi il peso delle commissioni, costi più trasparenti con la MiFID 2. Approfondimento anche sul Sole 24 Ore su Bolsonaro e la Bolsonomics. Roberto Darin a pagina 18, con anche un approfondimento sempre di Roberto Darin sulle aziende italiane che sono già presenti in Brasile. Le imprese ci credono, da FCA a Illy alla Marelli fino alle start-up del design. E poi la sezione lavoro, che esce ogni mercoledì con il Sole 24 Ore, articolo principale di Matteo Meneghello dedicato alle relazioni industriali, e in particolare la bontà che paga. Cresce in azienda e negli integrativi l'uso delle cosiddette ferie solidali, in aiuto ai colleghi in difficoltà, insieme al sostegno a volontariato e buone prassi. La foto, per esempio, è quella di alcuni lavoratori della Heineken, della sede italiana della Heineken, alle prese, il colosso della birra, con la manutenzione e il ripristino di cespugli e sentieri nel boschetto di Rogoreto, area verde problematica ma di cruciale importanza della periferia milanese. Una lunga intervista a Walter Ricciardi, che fa parte del Executive Board dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che si è dimesso dall'Istituto Superiore di Sanità. Difficile collaborare con il governo, hanno posizioni antiscientifiche. Questo racconta a Federico Fubini. A proposito di scienza, e invece bellissimo l'articolo di Giovanni Caprara, pagina 25, che ci racconta ai confini dello spazio. Pensate, raggiunta l'ultima Thule, la sonda della NASA sorvola il corpo celeste più lontano dalla Terra dopo un viaggio di 13 anni. È naturalmente una missione che è costata molto, 936 milioni di dollari, questa missione che si chiama New Horizons, e secondo le stime degli esperti ogni anno l'attività della sonda richiede 72 milioni di dollari. Naturalmente sono investimenti il cui ritorno è difficile calcolare, però la NASA in questo caso continua a decidere di farlo, questo investimento. Molto bella l'intervista di Gaia Piccardi, grandissima firma del Corriere della Sera, dello sport, che ha parlato a lungo con Dorotea Wierer, 28 anni, di Brunico, di Alto Atesina, ed è la biatleta azzurra di punta, attuale leader della classifica di Coppa del Mondo. La chiamano anche Calamity, come l'eroina del West, perché il biathlon appunto è sci di fondo e tiro con la carabina. Non sbaglia più, la nuova Dorotea ha stupito anche me, dice questa campionessa di se stessa. Un approfondimento dal Messaggero su questa misura che abbiamo detto annunciata dai campi di sci da Luigi Di Maio e Alessandro Battista in un loro videomessaggio, erano a Moena in Trentino, e dicono tagli agli onorevoli. Poi come vi ho detto anche da molti lo riportano molti altri giornali, in realtà Salvini ha subito detto che le priorità in realtà del governo per il 2019 sono altre. Vi ricordo ancora una volta l'intervista al ministro dell'istruzione Marco Bussetti a pagina 13, istituti tecnici per il rilancio, subito un patto con le imprese. E poi, a proposito di calcio e di geopolitica, se vogliamo, il torneo di calcio che parte il 5 gennaio, la Coppa d'Asia, e Gigi Riva racconta da Arabia Qatar, una delle partite in programma, a Iran-Iraq, le sfide della Coppa d'Asia fanno tremare le diplomazie. Partecipano infatti paesi asiatici, ma anche del Medio Oriente. Il torneo è l'apertura di una stagione di grandi match internazionali in Medio Oriente. Il culmine, naturalmente lo sappiamo, saranno i mondiali di calcio in Qatar nel 2022. Abbiamo parlato dei cambiamenti nella struttura di comunicazione del Vaticano, ne parla anche Alberto Melloni, vaticanista della Repubblica, pagina 18, il ribaltone del Papa per dare voce alla sua Chiesa. Dietro alle dimissioni del direttore della sala stampa Greg Burke e della sua vice, l'esigenza di una comunicazione più bergogliana in una stagione di veleni. Tra l'altro si parla anche naturalmente di Andrea Tornielli, ex vaticanista della stampa, che dal 18 dicembre è direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione. Molto abbiamo parlato di pronto soccorso con il reportage che c'è sulla prima pagina di Libero, di questa giornalista azzurra Noemi Barbuto, che ha trascorso la notte di Capodanno in un pronto soccorso, a proposito di emergenze del sistema sanitario in generale. Pagina 19 della Repubblica, Michele Bocci racconta: dai medici d'urgenza ai pediatri, ecco gli introvabili in corsia. Dal sindacato degli ospedalieri, la mappa delle carenze da qui al 2025, legata anche, come avviene, abbiamo visto sul Messaggero, per tutta la pubblica amministrazione, per lo squilibrio tra uscite e ingressi. A proposito ancora di Michael Schumacher, che domani compie 50 anni, un'intervista a Mika Häkkinen, ex pilota di Formula 1, uno dei rivali di Michael Schumacher. Il grande rivale ricorda il pilota tedesco. Da 5, pensate, vive in questo coma profondo, in questo stato vegetativo. E il titolo dell'intervista di Stefano Mancini: battere Schumi era un'impresa, riuscirci una gioia inarrivabile. Il Fatto Quotidiano ve l'ho ampiamente citato, il reportage di Libero sulla notte di Capodanno trascorsa al pronto soccorso, con le persone che sono arrivate in emergenza per fatti legati al Capodanno, tipicamente ferimenti per i botti o ubriacature, stati di ubriachezza appunto da pronto soccorso, ma anche normali, cosiddette tra virgolette normali emergenze una notte in pronto soccorso. La solitudine dei numeri zero a Capodanno, la trovate a pagina 15 di Libero, mentre a pagina 17 un riassunto degli incidenti sugli sci. Bollettino degli incidenti sulla neve negli ultimi 12 mesi. Pensate, l'incoscienza sugli sci, così il titolo, fa 30 morti all'anno. Dalla Val d'Aosta alle Dolomiti si moltiplicano gli interventi del soccorso alpino, spesso per salvare gli amanti dei fuoripista, perché ci sono naturalmente gli incidenti in pista. Quello di Michael Schumacher, per esempio, fu proprio un incidente in una pista, però ci sono anche tutti gli sciatori che si avventurano fuori pista a loro rischio e pericolo, però poi appunto è il soccorso alpino che deve andarli a salvare. Abbiamo detto della chiusura, della decisione di Francia e Gran Bretagna di chiudere la manica. Il manifesto approfondisce questo tema. Il ministro degli interni Javid interrompe le vacanze per poche decine di migranti, aumentano gli sbarchi, in Gran Bretagna è psicosi. E poi invece dal giornale una recensione di un libro, pensate, l'ho proprio, anch'io sono una grande fan di Bruce Springsteen e anche mia sorella, quindi l'ho regalato a mia sorella per Natale. Questo libro sono 850 pagine dedicate a Bruce Springsteen, alla sua musica, ai suoi testi, tra perdenti e poeti, il romanzo americano di Bruce Springsteen, l'autore appunto Leonardo Colombati, che in Come un killer sotto il sole raccoglie e traduce testi scelti, alcuni, perché benché il libro abbia 850 pagine non c'è stata tutta la produzione di Bruce Springsteen, e testi scelti del boss, così viene chiamato, e con un'analisi proprio per vederli, come spesso è stato fatto peraltro, come specchio del, come racconto in parole musicate, potremmo dire così, dell'America. L'Avvenire approfondisce la questione dei migranti sulla nave in mezzo al Mediterraneo, i 49 migranti dimenticati da tutti, pagina 9 dell'Avvenire. E poi c'è anche un approfondimento dalla Siria, agonia dei civili in trappola, capodanno di sangue nell'ultimo fronte di Idlib, un'infermiera uccisa, numerosi feriti negli scontri, sanità al collasso, i medici lavoriamo in emergenza, abbiamo 5 posti letto ogni 10.000 abitanti. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, appuntamento con voi per tutti a domani, naturalmente visto che ieri non ci siamo sentiti, con circa un giorno di ritardo vi faccio ancora tantissimi auguri per un buon 2019.